frequenze Sui Generis. Innamorati del femminismo. Ciao a tutte e tutti e ben ritrovati alla nuova puntata di Frequenze Sui Generis. Il tema per la puntata di questa settimana ce l'ha fornito un ragazzo di 17 anni, nello specifico mio cugino. Mi ha raccontato che durante l'ora di religione ha chiesto alla sua insegnante perché quando si pensa a Dio si pensa sempre a un maschio. E questa sua domanda ha scatenato imbarazzo e anche fastidio nella sua insegnante. Quindi mi è venuto in mente, ma è possibile un approccio diverso a queste tematiche? È possibile che l'ora di religione debba significare anche una chiusura rispetto a certi temi? E quindi, cari ascoltatori e care ascoltatrici, avete capito qual è il tema di questa puntata e vi diamo il buon pomeriggio in studio qua dagli studi di Radio Città Fujiko. Siamo in due per una nuova puntata di Frequenze Sui Generis e insieme a me c'è Viviana e ci sono io che sono Mari. E sì, Vivi, ti rispondo molto volentieri, c'è un approccio diverso, è possibile avere un approccio diverso e sarà il tema della nostra puntata con un'intervista assolutamente molto interessante a Selene Zorzi, una teologa che vi consigliamo assolutamente di ascoltare. Ma come sempre, per iniziare bene la puntata, aspettiamo la recensione della nostra Giulia e il primo brano musicale. Giulia questa settimana ha scelto Bon Iver. 10 anni, anche se passano in fretta, sono tanti e questo mese ci piacerebbe festeggiarli con voi e con Bon Iver, proponendovi questo artista che proprio nel mese di febbraio festeggia il decennio dall'uscita della sua opera prima, nonché capolavoro della musica folk indipendente, For Emma, Forever Ago. Vero e proprio album spartiacque rispetto a questo genere di cantautorato. Brani dall'atmosfera ovattata e rarefatta, come quando si cammina in una valle ricoperta di neve. Un'idea di malinconia ed aulicità, catartica e rilassante allo stesso tempo. Un tipo di musica che prima ti fa struggere e poi ti cura, che nasce in una solitudine prima angosciante e poi ristoratrice. E così è la genesi dell'album e dei suoi brani, piccoli, preziosi scrigni di parole sussurrate. In attesa di un bel tour che per il momento resta circoscritto nel Regno Unito, partiamo con il primo brano, Skinny Love, che tra l'altro è stato uno dei più coverizzati, oltre che essere veramente uno dei più bei pezzi prodotti negli ultimi 10 anni. Buon ascolto! Thank you. Al telefono con noi c'è Selene Zorzi. Selene Zorzi è docente di patrologia e storia della teologia all'Istituto Teologico Marchigiano, è specialista di tematiche di genere ed è fondatrice e coredattrice della rivista telematica Reportata, passato e presente della teologia. Inoltre ha ideato e gestito il sito del Coordinamento Teologhe Italiane. Benvenuta Selene. Grazie di questo invito e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora Selene, noi iniziamo proprio dal titolo del tuo libro che si intitola Il genere di Dio, la Chiesa e la Teologia alla prova del gender, edizioni La Meridiana, pagine altre. Allora già questo titolo è un titolo denso di significato e ci sono due parole che probabilmente da sole occuperanno il tempo di tutta l'intervista, quindi genere e Dio. Allora noi vorremmo iniziare con te dalla parola genere, perché purtroppo molto spesso quando abbiamo sentito qualcuno, insomma comunque di ambienti legati alla Chiesa, parlare di genere, abbiamo ascoltato definizioni confuse quando non completamente errate e fuorvianti. Quindi quello che ti chiediamo è qual è il significato della parola genere in questo libro, o meglio, quali sono i significati di cui tu parli? Sì, e grazie di questa domanda, perché in effetti il libro nasce proprio così, insomma, cioè nel rendersi conto che si sentiva parlare di genere o di gender in modo confuso, ambiguo e apparentemente anche scorretto. Quindi quello che ho tentato di fare è stato, magari con una semplificazione, perché appunto volevo che il libretto fosse, come dire, in mano a tutti, e quindi questi strumenti della terminologia fossero in mano a tutti quanti, ho provato a spiegare che spesso noi utilizziamo la parola genere con vari significati, e se non ci chiariamo in quale significato lo usiamo, andiamo avanti con dei fraintendimenti all'interno dei dialoghi, appunto dei dibattiti. Quindi io ho pensato di spiegare, insomma, in maniera appunto molto semplice, poi ripeto, si potrebbe fare, e altri libri lo hanno fatto e lo stanno facendo, anche la storia di tutti gli studi di genere, però io mi sono limitata a ricordare che c'è un uso grammaticale della parola genere, è il primo significato della parola genere, per cui noi diciamo genere maschile, femminile o neutro in una lingua, e per esempio il neutro in italiano lo abbiamo perso, quindi abbiamo soltanto il genere maschile e femminile in grammatica. Poi c'è l'uso che viene dall'antropologia culturale, che analizza una categoria, si chiama euristica, cioè cerca di comprendere, di capire, di cercare appunto come a partire dal sesso una società poi regola, struttura i ruoli di uomini e donne. Questo è un po' il significato, quello che va per la maggiore nell'ambito accademico, appunto quando si intende parlare di studi di genere. Allora si dice genere nel senso che è l'attesa che si costruisce appunto anche socialmente, in maniera relazionale, di come le persone che sono maschi o femmine poi ci si aspetta che debbano comportarsi, debbano agire, quali caratteristiche debbano sviluppare a livello appunto di personalità, o magari anche quali ruoli sociali è consentito loro svolgere. C'è poi l'altro significato, che è il terzo, è associato spesso a questa cosiddetta ideologia gender. Ecco, qui mi piace ricordare una definizione di un nuovo libro che è uscito adesso da parte dell'autore Damiano Migliorini, e si intitola Gender, Filosofia e Teologia, che dice che in fondo è un modo di etichettare, distorcendolo, quanto prodotto dal campo degli studi di genere, in modo da poterlo delegittimare. Ecco, a me sembra una buona definizione questa ideologia del gender, cioè un'invenzione polemica, dice ancora Migliorini, creata tramite una strategia di etichettamento e di appunto come dire delegittimazione. Quindi lo troviamo spesso in bocca ai detrattori che dicono che ci sarebbe questa ideologia del gender che è venuta insomma a distruggere l'umanità e che in realtà è soltanto appunto la come dire la distorsione, no? Con, probabilmente con precise finalità anche politiche di questi studi. Infine però volevo ricordare che c'è anche un quarto significato che spesso entra nel dibattito e che confonde ancora di più le cose, che è quello che deriva dal fatto che in italiano, non in inglese, genere è attribuito a cose per caratteristiche simili, cioè non so, un gruppo appunto un gruppo di sedie, il genere umano, ecco, e sotto questo punto di vista viene utilizzato questo significato per dire che gli studi di genere o l'ideologia del gender vorrebbe far diventare l'umanità tutta indistinta. Ecco, anche questo è un grande fraintendimento. Più o meno questi sono i grandi significati che ho cercato di spiegare nel mio libretto. Esatto, e diciamo rispetto a questi quattro significati tu dove ti collochi? Beh, ovviamente come, sia come studiosa che insomma come accademica all'interno degli studi di genere, che sono ormai degli studi sdoganati, che hanno da più di 40 anni di ricerche, che hanno dipartimenti, addirittura si fanno master in studi di genere in tutto il mondo, insomma questo è il significato che hanno per la maggior parte appunto degli studiosi. Il problema è che quando poi si è cominciato a parlare all'interno dei dibattiti, come dire, tra virgolette, sui social o su Facebook, da parte di persone che non avevano un minimo di preparazione su questi argomenti, come dire, la polemica è un po' sfuggita di mano e forse anche i toni sono diventati veramente di proporzioni, come dire, enormi, insomma, no? Rispetto appunto a quello che poi invece gli studi di genere offrono, che è una disamina e una analisi di quello che accade nella società, diciamo, per gli uomini e per le donne, insomma. I am my mother's only one. It's enough. Allora Selene, dopo aver compreso che cosa intendi tu quando parli di genere, e essendo appunto un significato che si trova assolutamente d'accordo col significato che noi con questa trasmissione intendiamo, Adesso vediamo, veniamo alla seconda parola del titolo del tuo libro, cioè Dio. Ti chiediamo perché è importante questa riflessione sul genere di Dio, quali sono le prospettive che questa riflessione offre alla società contemporanea e poi ovviamente non vogliamo spoilerare, però se vuoi dirci qual è la tua conclusione, cioè di che genere sostieni che Dio sia. Sì, allora diciamo che Dio non avendo corpo, non essendo materiale ma essendo spirito, non ha sesso, no? Appunto gli studi di genere in questo ci aiutano a capire meglio, siccome gli studi di genere distinguono tra sesso e genere, possiamo dire che Dio non ha un sesso ma ha un genere, cioè noi ci rivolgiamo a Lui con la terminologia presa dalla nostra esperienza, ovviamente sempre per parlare di Dio noi usiamo metafore provenienti dall'esperienza umana, e dunque possiamo dire che Dio può essere detto con metafore femminili o con metafore maschili, ma questo diciamo non è niente di nuovo, perché nella Bibbia noi troviamo che Dio viene detto madre, o appunto che Dio venga detto padre, questo non c'è bisogno ovviamente di dirlo, ma ovviamente non si fa riferimento al suo essere sessuato, si fa riferimento a ciò che significa per noi la paternità o la maternità, e quindi in questo possiamo dire che il linguaggio teologico di fatto è sempre solo un linguaggio di genere. E questo è un aspetto molto interessante. E alla conferenza a cui io ti ho conosciuta personalmente, hai anche riportato proprio dei brani o comunque delle analisi rispetto ai testi come la Bibbia, il Vangelo, dando un'interpretazione che effettivamente era nuova, almeno per una persona come me. E quindi ti chiedo se hai voglia magari di fare qualche riferimento di questo tipo anche per i nostri ascoltatori. Ma certo, come no. Allora, intanto bisogna dire che le donne che hanno cominciato a prendere in mano la Bibbia già dalla fine del 1800, poi le teologhe, hanno fatto una grande ricerca dal punto di vista appunto dell'identità di genere delle donne nella storia del cristianesimo, e anche appunto delle metafore maschili o femminili per parlare di Dio. Quindi quello che dico non è niente di nuovo, ma è semplicemente qualcosa che sta cominciando a venire un pochino più allo scoperto. Si tratta di anni e anni di studi. Faccio un esempio, la teologia cristiana è stata molto determinata dal famoso versetto che oggigiorno sentiamo citare a proposito, ma soprattutto a sproposito, di Genesi 1, laddove si dice che Dio creò l'uomo a sua immagine. Ecco, quando si dice questo, a parte appunto le tante interpretazioni che sono state date nella storia della teologia, nella storia della Chiesa, si dice anzitutto che appunto l'essere umano è a immagine di Dio, cioè sia i maschi che le femmine hanno una dignità, no? Tra virgolette divina, quindi hanno pari dignità, ma in qualche modo si dice anche qualcosa di Dio, cioè ad immagine di che genere è Dio allora? E allora in questo anche le teologhe, appunto le biblisti, hanno fatto un grande lavoro di recupero di immagini o anche appunto di traiettorie, di come dire, prospettive che hanno declinato Dio al maschile o al femminile, e hanno fatto una riflessione su questo. Faccio un esempio. Intanto ci sono tante immagini che associano Dio alla femminilità, per esempio la parola Ruah, che in ebraico, la lingua nella quale è stata scritta la Bibbia, significa spirito, in realtà è femminile in ebraico, poi con una strana conversione possiamo dire che in greco diventa neutro, e che in latino spiritus è maschile, quindi vedete che diventa difficile poi attribuire un sesso allo spirito. Ancora un'altra traiettoria, un filone che le teologhe hanno trovato della terminologia applicata a Dio delle viscere di misericordia, ecco anche questo in ebraico è le rahamim, le viscere di misericordia, vengono dal rechem, che è proprio l'utero, per dire che appunto Dio ama come ama una donna, con le viscere di misericordia. Oppure anche è stato c'è stato un filone di ricerca che ha riscoperto l'immagine della sapienza dell'Antico Testamento, questa sapienza, quindi in fondo una figura divina che ha appunto delle caratteristiche femminili, ma trascende lo stereotipo del femminile, perché si dice che per esempio è onnipotente, ha autorità, ordina, grida in piazza, predica, no? E quindi noi non gli daremo queste caratteristiche, invece appunto nella Bibbia ci sono. L'altra cosa molto interessante a mio parere è anche che in realtà quando siamo anche alle prese con delle immagini maschili per parlare di Dio, la maschilità che viene fuori, per esempio del Dio di Gesù Cristo, no? Del Dio Padre di Gesù Cristo, non è una maschilità secondo il nostro stereotipo maschilista o patriarcale, per cui abbiamo un Dio che per esempio appunto si commuove, è un padre materno che crea come in un parto, che porta in gestazione il popolo, quindi che ha caratteristiche anche femminili o comunque non così rigide, no? Maschili, così come noi abbiamo imparato a significare o a caratterizzare la maschilità. E l'ultima cosa che vorrei dire, anche se se ne potrebbero dire ovviamente tante altre, è che lo stesso Gesù che rivela questo Dio Padre era maschio, ovviamente, nessuno lo mette in dubbio, ma ha una maschilità molto particolare, perché è una maschilità appunto che per esempio non è androcentrica, non è individualista, è un maschio Gesù molto particolare, per esempio che ascolta il desiderio delle donne, no? E chiede appunto che cosa vuoi che io faccia di te. Non avvalla anche una mascolinità violenta, escludente, solitaria, impassibile, no? Come siamo soliti pensare al maschio che non deve chiedere mai, come c'era un tempo, ai miei tempi, insomma, una pubblicità. Ecco, queste sono tante traiettorie che un po' nel libro, ovviamente in maniera molto semplice e sintetica, sintetizzo, ma che vorrebbe essere soltanto un trampolino di lancio per chi poi volesse leggere qualcosa di più di più approfondito sull'argomento. Ripeto, gli studi sono tanti e le teologhe da tanti anni che producono riflessione su tutti questi argomenti. Ecco Selene, io credo che gli spunti che ci hai dato siano stati degli spunti che almeno a mio avviso sono stati degli spunti molto potenti, di un qualcosa che veramente non siamo abituate ad ascoltare. Devo dire che davvero, insomma, come persona nata in Italia e che insomma ha fatto catechismo, e sentirsi dire, collegare queste viscere, questo utero all'immagine di Dio, comunque sentir parlare di questo Gesù che alla fine, insomma, mi si perdoni il termine, però se ne parla molto, è tutto il contrario che un maschio alfa, come si dice ai giorni nostri, è assolutamente qualcosa che io credo invogli molto a scoprire anche questa voce che c'è, che esiste all'interno della Chiesa, però che noi non lo sentiamo assolutamente mai. E quindi anche questa, insomma, poi è l'ultima domanda che ti faccio, è perché secondo te questa voce, anche così, sia così precisa sulle questioni di genere, ma anche ampliando, no, che va ad analizzare meglio i significati che ci sono e che in un qualche modo si oppone a un'interpretazione patriarcale della religione, perché questa voce ha così poca risonanza a confronto invece delle voci imprecise, fuorvianti, che purtroppo ci capita di sentire quasi tutti i giorni? Beh, intanto bisogna ricordare che ovviamente siamo in Italia e quindi ovviamente il cattolicesimo sembra ed è stato sempre sentito e vissuto come l'unica forma di, non solo di cristianesimo, ma anche di, io direi proprio di fede, di religione, tanto è vero che io faccio l'esperienza con i ragazzi che spesso si dicono atei e fanno il passaggio, mentre in realtà poi a ben vedere sembrerebbero soltanto anticattolici a volte, no? Perché magari non ce l'hanno contro Cristo, credono in Dio, eccetera. Ecco, sotto questo punto di vista mi sembra importante sottolineare un fenomeno che avviene soprattutto ultimamente proprio in Italia, che spesso c'è gente che si dice cattolica, ma che si scorda che prima di essere cattolici occorre essere anche cristiani. Ecco, questa identificazione spesso, come dire, un po' c'è uno scollamento, ecco, tra dirsi cattolici, magari anche a livello politico e a livello istituzionale, quando poi non si conoscono i testi, non si conosce la storia da cui si viene, non si conosce approfonditamente la fede e la teologia. Credo che questo sia un passaggio che purtroppo fa soffrire un po' tanti di noi credenti, ecco. E l'altra questione è che sicuramente per il fatto che le donne hanno avuto poco accesso alla tradizione, diciamo, che è stata appunto tramandata esclusivamente per via, come dire, maschile, per il fatto anche dell'ordinazione maschile, quindi del sacerdozio maschile, abbiamo forse disimparato ad ascoltare una voce altra, una voce appunto un po' differente. E la possibilità che è stata data alle donne di entrare a studiare teologia e quindi poi a insegnarla e a studiare, a ricercare, a pubblicare, ovviamente ha aperto anche a nuovi sviluppi. Io credo che gli studi di genere, sotto questo punto di vista, potranno, come dire, rinvigorire fortemente anche la dogmatica, farla essere molto più vicina alle persone, alle loro storie concrete e alle loro esperienze concrete, insomma. Spero appunto, come vedo che si sta facendo, che le voci all'interno del cattolicesimo, che sono sempre molto varie al di là di quello che sembra, siano sempre più presenti anche con delle prese di posizione, con delle pubblicazioni, per mostrare che appunto non ci sono i cattolici da una parte e il gender dall'altra, come appunto all'interno del cattolicesimo, proprio perché cattolicità significa universalità, le voci sono e possono essere tante, insomma. Selene, grazie molte. Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Un'intervista piena di spunti e di suggestioni, quella a Selene Zorzi. Speriamo che vi sia piaciuta e a questo punto non ci resta che salutarvi. Ricordatevi che potrete riascoltare il podcast della puntata, lo pubblicheremo sulla nostra pagina Facebook Frequenze Sui Generis. Un buon pomeriggio a tutte e a tutti e alla prossima settimana, sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko.